Sola ricchezza mia, per la madre, per i fratelli, all'animale, l'eredità paterna. Una masnara di banditi la strada la cercai, era quello il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andarmene con voi, vita di lavoro e d'amore, e il labbro mio mormorò un'ardente preghiera, oh Dio, ella non sappia mai, non sappia mai. Oh! son Jack, son lo sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui dove. Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Come on! concetto, sì, avrò. Soperbere come un signore, ma per Dio, son tutto nella sede di te. Verso il distrutto, ma se vinto, t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Son pronto, taglia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Che tu l'adori. Voi che trovate in me. Che avete? Io re. Io re. Quante? Regina! Hai vinto! Allora la seguente! Quante? Una. Due. Due assi e un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva! Ora è la decisiva! Sì. Taglia! Renz, mi duole delle amare parole. Sparta! Ho sempre pensato bene di voi, Jack Renz, e sempre penserò. Io penso solamente che t'avrò fra le mie braccia. Te ne vedi, ti vinco! Presto già, perché te con poche cose sto. Che devo darvi? No! È la bottiglia! Vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto già, vedo, chiedo per pietà!

racconta, racconta! Come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto. Quanto a questo bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero. E che desideran tutti, vero? La squadra di Monte Re bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalaste alle spalle il povero Tony. No, non è vero. Sì, non mi dica dal valle fu ucciso un postiglione. Assassino mai! Ma la polpa, quella notte venisti per rubare! Con gli occhi e sorriso di vigna riservati! Che lei ci ha rubato! Ladro, ladro! Ladro, con le tue da casse! Ladro, ladro! Risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola la quale se mi sciogliete un braccio mi scozza di mia mano. D'altro voglio parlarvi, per la palla ancora. poi chiedo una grazia e una promessa. Che ella non sappia mai come son morto. Un minuto sì breve. Lasciatela! Lasciatela! ci ha rubato il tuo cuore. Io sono Ramona, sarò prima perdono. Vieni. Perdonerai come perdonerete tutti. No, non possiamo. Si può ciò che si vuole. E anche tu lo necessario. Non può morire. E voi no, mi prometto. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。